piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Il decreto vieta gli spostamenti tra le regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nulla vi vieterà di raggiungere i vostri genitori il 20 dicembre e di tornare a casa il 7 gennaio. Questo lo potete fare. Così, per non incorrere nei divieti di spostamenti, dovete anticipare il viaggio a casa dei familiari. Un po' difficoltoso per chi lavora, ma ci sono sempre i giorni di ferie da consumare. Se invece avete problemi a prendere le ferie, ecco che potete scegliere l'alternativa numero 2, sempre giocando con le date. Potete raggiungere parenti e amici il 20 dicembre, cioè prima che scatti il divieto di mobilità, e tornare a casa il 27 dicembre, cioè dopo Natale e Santo Stefano. In caso di controllo, potete sempre dire, senza imbrogliare nessuno, che state tornando nel vostro luogo di residenza o di domicilio per motivi di lavoro. In questo modo, però, dovreste rinunciare a Capodanno. Questa è soltanto una parte del problema, preso dal canale YouTube dell'avvocato Angelo Greco, che sta spiegando come legalmente è possibile in qualche maniera cercare di ottimizzare quella che è la situazione di difficoltà. È indubbio che il grande dibattito all'interno delle famiglie, fatto salvo dei dibattiti più gravi, più importanti, più pesanti, quelli sulla salute, quelli sulle necessità di logistica e di situazione economica, è quello di come passare le vacanze di Natale. Abbiamo fatto una riflessione, abbiamo visto che in realtà dal primo dopoguerra in poi non c'è mai stato un Natale in cui siamo stati costretti a prendere delle decisioni così anticipate e così drasticamente limitanti quelle che sono le nostre abitudini. È pur vero che c'è una fetta di popolazione, come il sottoscritto, che dice: che bello, che fortuna, finalmente avrò una scusa ufficiale per fare quello che ho sempre fatto, evitare il più possibile parenti, amici, feste, festeggiamenti, chiudermi dentro casa oppure andarmi in un posto che mi piace. Poi devo dirvi, in piena sincerità, il fatto che oggi sia un obbligo, che tutti devono esattamente seguire alcune regole, toglie anche a noi misantropi, solitari, nemici delle feste, nemici dei festeggiamenti, nemici degli assembramenti, il piacere di essere un'eccezione. Quindi siamo tutti sulla stessa barca e tutti dobbiamo gestire un'emergenza. Ora, noi ci siamo posti l'idea che massimamente sono tre le grandi categorie attraverso le quali è possibile poi prendere una decisione. Oggi sarebbe interessante, le persone che sono in ascolto alla radio, hanno voglia di chiamare, telefonare, ci farebbero veramente un bel servizio chiamando l'800240024. Sarebbe interessante, dico, capire qual è la prevalenza di comportamento a seconda di quelle che sono le tre categorie. Categorie che, come al solito, hanno messo a punto i 15 o 17, adesso non ricordo quanti sono, esperti sondaggisti che ogni settimana ci preparano quello che è lo strumento, naturalmente non scientifico, più adatto per saggiare le intenzioni, le aspirazioni e le volontà di futuro comportamento dell'italiano medio. Quindi 800240024. È dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che non si presentava un Natale così controverso e problematico per gli italiani. Spostamenti, viaggi, incontri, sante messe, riunioni, sono tutti coinvolti. Amici, parenti, amanti. Nelle famiglie è in atto una gigantesca pianificazione strategica per riuscire a ottemperare alle restrizioni governative con i propri desideri e le proprie paure. C'è chi, tutto sommato, accetta l'idea di una celebrazione più essenziale e morigerata, e chi invece giudica un assurdo sopruso dover rinunciare a un Capodanno senza cenone, feste e balli. Oggi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori qual è il loro atteggiamento prevalente tra questi tre. Chiamate ora all'800240024 e diteci se siete più 1. Rigoristi corridoisti. Sfrutterò al massimo le possibilità di spostamento che mi sono date dal corridoio giallo e, con senso di responsabilità, rispetterò anche la raccomandazione del governo di evitare feste e pranzi allargati. 2. Coprifuochisti scappatoisti. Rispetterò il coprifuoco, ma non rinuncerò a scambio di regali, gite e convivialità di Natale, con stratagemmi come il tampone e tavolate distanziate sia alla vigilia che a Capodanno. 3. Anarco-festaioli. Basta con i divieti. A casa mia farò quel che voglio io e vedrò chi mi pare. E per Capodanno ho già prenotato hotel per festa privata e cenone in camera per aggirare il coprifuoco. Quindi 800240024, avete visto che le categorie sono tre e abbastanza distanti l'una dall'altra, ve le riassumo. Intanto mi piacerebbe capire numericamente da che parte sta il pubblico che mi ascolta. Allora, la prima categoria sono i rigoristi corridoisti. Hanno davanti, come ho io diciamo, il promemoria di altro consumo, ma in rete ne trovate quante ne volete. I giornali hanno fatto ampi riassunti di quello che sono le norme di comportamento. Si studia bene l'idea del corridoio, il corridoio giallo, anche una cosa nuova. Il corridoio giallo è un termine a cui non eravamo abituati a non superare la linea gialla, ma il corridoio giallo è già qualcosa in sé suggestivo, che dà il senso di una possibilità che si apre e si chiude, una sorta acque del mare che si aprono per far passare le persone e poi si chiudono subito. Ecco, il rigorista corridoista è quello che sta studiando adesso tutte le tabelline e vede se in questo lasso di tempo che va dal 13 al 21 dicembre, in cui ci si può spostare tra regione e regione, lui riesce a comprimere le esigenze di lavoro, le esigenze di gestione familiare e le esigenze di tradizione festaiola. È stato fatto apposta, un po' anticipato, perché chi parte il 21 o ci sta fino al 7 o necessariamente il Capodanno le passarselo a casa, può tornare ma stare a casa. Coprifuochisti scappatoisti sono quelli che in qualche maniera cercano di usare dei piccoli stratagemmi per riuscire il più possibile a fare comunque la convivialità natalizia. Diciamo, fanno le tavolate ma le fanno distanziate, fanno i tamponi in modo che tutti stanno tranquilli, diciamo, cercano una maggior possibilità di muoversi, diciamo, nelle maglie larghe. Anarcofestaioli. Gli anarcofestaioli sono la terza categoria, sono quelli che non sentono storie, sono quelli che dicono basta, non ce la facciamo più, queste regole vanno per gli altri, per i paurosi, per i timorosi, per quelli che si fanno abbindolare da queste false promesse. Sono quelli che già si vede che ogni tanto si scopre che organizzano le festicciole della Milano bene, usano tutte le scappatoie che usano ristoratori e albergatori per permettere di fare un pochino più di fatturato. Quindi fai la cena ma ti danno anche la camera, quindi ti puoi anche fermare, quindi alla fine passi una serata fuori, alla fine poi il veglione lo puoi fare. Magari sì, le cene possono essere servite soltanto in camera, ma si prende 10 amici, si prendono 10 stanze con rispettive compagnie. Poi nottetempo si aprono le porte e per i corridoi si fa un grande cenone. Qualcuno sta già pensando questa soluzione. Avete soluzioni più fantasiose? Fatecelo sapere. Allora, abbiamo il primo ascoltatore, ricordo ancora il numero 800240024, Pier Giacomo, buongiorno. Buongiorno, io sono un imprenditore, ho un'azienda con 100 dipendenti in provincia di Torino. Mia figlia vive in Svizzera e ho una casa a Courmayeur, quindi Valle di Aosta. Il 21, il 22 e il 23 la mia azienda lavora con tutte queste persone, quindi io sarò libero il 23. Mia moglie potrà salire prima e io non posso salire perché chiaramente è una situazione analoga alla mia. Io lavoro fino al 23, ma come risolve questo problema? Allora, di queste tre categorie, visto che comunque sia lei non può lasciare il lavoro, sua moglie se vuole può andarsene ma deve stare senza marito, come la risolvete? Vado incontro a qualunque ammenda, parto, provo ad andare. Provo, quindi anarco-festaiolo, terza. Cioè sua moglie parte in anticipo con la famiglia, lei come chiude l'attività lavorativa, si avvia, poi vede che succede, può andare in Val d'Aosta, se la fermano paga la multa, mette in conto, potrebbe pagare una multa. Ma il conto della multa è il meno, perché il problema è quello che mi mandano indietro, capisce? Cioè, il conto di pagare la multa è il meno. Ecco, per capire il meccanismo, già fatto un progetto, parte di notte, parte la mattina presto, qual è l'orario migliore per cercare di farla franca in questo caso? Visto che l'orario migliore per cercare di farla franca, secondo me, è partire al mattino alle 5, è difficile alle 6, perché da Torino a Courmayeur ci vuole un'ora e mezza, è difficile alle 6 e mezza trovare. E qual è il giorno migliore per partire? Il giorno della vigilia o il giorno proprio il 25, che è più facile che non ci siano controlli? No, ma io partirei il 23, 24 mattina, diciamo, praticamente, perché 23... Il giorno della vigilia alle 5 di mattina. Lei chiude la sua attività la sera prima, no? Mi sembra, il 20... E partire magari alle 2-3 di notte non è meglio, mi viene in mente, capito? No, perché rischio la doppia multa a quel punto lì, perché mi muovo in un orario nel quale non posso assolutamente muovermi. Ah già, c'è il coprifuoco, è vero. Quindi alle 6 esatte, alle 6 esatte lei sgomma da casa, la mattina alle 6? Alle 5, perché alle 5 che c'è lo sblocco, mi scusi. Sicuro che non è alle 6? Mi sembra che sia alle 6 lo sblocco. Mi pareva alle 5. Comunque, questo cambia un po'. Lo sblocco, quindi lei parte per lo sblocco. Lei si fa trovare già, diciamo, sulla linea del traguardo, della partenza alle 6. Parte sperando che non la fermano. Se la fermano, lei cosa fa? Si prega, dice: pago qualunque multa, vi prego, fatevi andare dalla famiglia. Forse magari si fanno commuovere. Dico le cose come stanno, dico: signori, non mi sembra alle 5. Mi confermano perché... alle 5. Lo sblocco, lei ha ragione, alle 5, certo. Lo sblocca alle 5, perfetto. Perché se no si possono trovare mille scamotage, cioè io sono fornitore di immorsamenti per funivie e cabinovie, mi faccio fare una certificazione da uno degli impianti, ma è un falso, capisce? Devo evitare di fare falsi, vuol dire sinceramente io raggiungo la mia famiglia. Esatto. È che il problema sa quale sarà, è che mezza Italia, anzi tre quarti Italia si troverà nelle stesse condizioni. È stato fatto apposta, penso, questo dispositivo per impedire che ci sia proprio l'esodo tipico natalizio. Quindi dice: organizzatevi, partite prima, poi potete tornare a casa. E per il ritorno, scusi, così so tutto il quadro. Il ritorno siete liberi, potete tornare tutti il 7, volendo. No, ma il ritorno si torna al 7, quindi non c'è nessun problema, non esistono problemi, cioè, per carità. Mia figlia che abita in Svizzera fa il tampone, viene in Italia e viene tranquillamente a Courmayeur, dove abbiamo una casa, dove ci troviamo. Certo, in Svizzera abbiamo visto che casino c'è negli impianti sciistici. La Svizzera pagherà caro sua apertura. Va bene, grazie, intanto ci ha dato una importante apertura. Sentiamo Luca, buongiorno. Luca, buongiorno. Buongiorno. Spenga il viva voce, perché sennò la radio, la spenga. Sì, perfetto. Pronto? La sento. Ho spento la radio, ma non la sento dal telefono. Questo è un problema del suo telefono. Non sente nulla? Pronto? Io sento ancora. Guardi, Luca, deve ritentare il collegamento, sarà più fortunato. Perché se lei non sente me, non posso parlare con lei. Daniela, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo semplicemente chiedere se è proprio indispensabile passare il Natale nelle seconde case, visto la situazione del paese. Mi domando invece come faranno quelli delle comunità che erano abituate a dar da mangiare al giorno di Natale a chi non può mangiare, come faranno? No, io adesso tutto questo qua. Problema non me lo sono posto. Io penso che per questo tipo di attività non credo che sia precluso, perché uno può uscire dalla porta di casa e andare a portare da mangiare al povero davanti alla stazione. Non credo questo sia impedito. Non si può uscire dal comune, immagino, una cosa del genere, però l'attività benefica sotto casa al povero può essere fatta. Quella sulla domanda delle seconde case, chi ce l'ha, certo, magari l'unico momento in cui può sfruttarla, se possibile cerca di usarla nel limite del possibile. Mi sembra di capire che lei è più su una su una prima posizione rigorista, quello che si può fare si fa. Lei può andare nella seconda casa durante il corridoio giallo, può rimanerci fino alle 7, può tornarsene prima. Patrizia. Buongiorno. Io volevo lasciare la mia testimonianza e credo forse che sia così, nel senso, io sono rigorista, diciamo che si accetta questa situazione perché ho vissuto in famiglia un caso adesso di mia nipote, che è giovane, che ha 28 anni ed è uscita di casa, ancora non è a posto, nel senso che ha avuto dei problemi dei postumi post-Covid, e perché l'avevano mandata per lavoro, comunque ha incontrato tantissime persone pur avendo mascherine e tutto, quindi si è ammalata, diciamo, in maniera tosta, e ancora dopo 45 giorni non è ancora guarita del tutto, quindi diciamo sono molto legata a lei. Un dato che stiamo registrando, appartengono sì. Ai rigoristi corridoristi soprattutto le sì. Persone che sono state direttamente interessate o nella sfera familiare o nella sfera personale, una sfera delle amicizie, dal contagio, e quindi sanno che non c'è da scherzare, ecco, e quindi corrisponde con quello che stiamo in questo momento registrando. Quindi lei cosa farà a questo punto? Come avete organizzato la vostra festa? Considerato c'è la nipote che ancora è sospesa. Purtroppo io sono mesi che non vedo mia sorella, mia nipote, dove facevamo la vigilia. E abbiamo deciso che, ovviamente, a parte il fatto che qua non ci si può muovere nei comuni, noi siamo provincia di Milano e quindi comunque non ci si può muovere, quindi purtroppo lontani, cioè nel senso tutti lontani, non si farà la vigilia. Quindi vi attenete rigorosamente a quelle che saranno le regole, ognuno sta a casa sua, vi sentite a distanza e sperando che andrà meglio magari alla prossima festa. Ci fermiamo un istante. Potete andare dai vostri genitori prima del 21, non durante il blocco. Volendo però, un sistema ci sarebbe, quello di farvi trovare da un vostro parente o da un amico un lavoro per qualche giorno. Ad esempio in un ristorante, in un bar, in un negozio. Oggi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori qual è il loro atteggiamento prevalente tra questi tre. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se siete più 1. Rigoristi corridoisti. Sfrutterò al massimo le possibilità di spostamento che mi sono date dal corridoio giallo e, con senso di responsabilità, rispetterò anche la raccomandazione del governo di evitare feste e pranzi allargati. 2. Coprifuochisti scappatoisti. Rispetterò il coprifuoco, ma non rinuncerò a scambio di regali, gite e convivialità di Natale, con stratagemmi come il tampone e tavolate distanziate sia alla vigilia che a Capodanno. 3. Anarcofestaioli. Basta con i divieti. A casa mia farò quel che voglio io e vedrò chi mi pare. E per Capodanno ho già prenotato hotel per festa privata e cenone in camera per aggirare il coprifuoco. 800 24 00 24, mi scrive un ascoltatore per dare un argomento in più di preoccupazione al primo amico che ha telefonato, che sta organizzandosi una fuga della vigilia di Natale. Cioè, attenzione, perché proprio nell'orario tra le 5 e le 6, l'orario in cui cambiano il turno le pattuglie della polizia stradale, e agli autogrill è pieno di macchine, quindi non è proprio il momento giusto per chi cerca di non incontrarli. I consigli che vi stiamo facendo ascoltare sono presi dal canale YouTube dell'avvocato Angelo Greco, che dà dei consigli, dei consigli nel limite della legalità, diciamo, in cui ci si può muovere. Se un amico vi dà un lavoro, se è regolarmente documentato questo lavoro, potete usarlo per muovervi con una maggiore tranquillità. Comunque abbiamo detto tre categorie di persone che riassumono quello che è tutta la progettualità delle feste: rigoristi, corridoisti, quelli che usano soltanto le possibilità messe a disposizione dai vari decreti; coprifuochisti scappatoisti, quelli che studiano appunto lo stratagemma, la piccola fuga, la scusa, il tubo che perde, insomma, si inventano nelle maglie del regolamento, si può sempre trovare delle scappatoie; anarcofestaioli, che ancora non hanno chiamato. E mi sorprende questo, visto che la vulgata direbbe che c'è una sorta di, al di là di quello che dice il rapporto Censis, che pare che gli italiani in realtà siano molto coscienti, però sembra la vulgata c'è una sorta di malcontento anarcoide che gira, persone si stanno organizzando, feste di influencer fatte nelle terrazze milanesi, alberghi che si organizzano, ristoranti si organizzano con il pernotto, come una volta diceva vorrei la coperta viva, ecco, qualcosa del genere, vai a mangiarti una pizza, dicono vuol farsi il riposino dopo, ma non è per quello che voi pensate, perché è una maniera per rimanere anche dopo le 22. Allora 800240024, Luca, buongiorno. Quale categoria? Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Quale categoria allora, si ritrova meglio? Io sicuramente sono nella categoria A. Rigorista, corridoista. Sì, cercherò per quanto è possibile di fare delle feste più morigerate. Il problema principale è che non vorrei togliere tempo, qualcosa. Ovviamente, spazio a persone come i miei genitori. Con la stronza di Siri, scusate, mi ha interrotto l'audio, adesso vediamo un po' se lo riprendo. Luca, mi sente ancora? Sì, no, mi è partita Siri dal Mac, scusate, capita, una rompipalle ogni tanto interviene, ho pigiato la tastiera, sto a casa mia, mi è partita Siri, mi ha detto scusa non ho capito bene, mi ripete Luca per favore. Assolutamente, cercherò di fare delle feste più morigerate, sicuramente tentando di togliere il meno tempo possibile ai miei genitori, perché la cosa che mi pesa di più sono per i genitori, perché sono persone di una certa età, oppure la nonna di mia moglie. Ma che abitate ha più di 90 nella anni. Stessa città? Abitate nella stessa città? Abitiamo nella stessa città a 4 km di distanza. Quindi lei si organizza come può, starete come insieme può, per pranzo. Prima. Ecco. Quello che mi fa veramente arrabbiare, sinceramente, è vedere poi scene, per esempio, come quelle che sono successe ieri al Pincio o da altre parti, o comunque assembramenti che vedo anche nella mia città. Beh, guardi, lei sta a Roma, abita a Roma? E io sono sia di Roma, ma abito in questo momento a Reggio Calabria. Sì, gli assembramenti c'erano, diciamo, anche a Piazza Strozzi, mentre facevano a Pugna, al Pincio e in altre zone di Roma c'erano gruppi di ragazzi, che anche ieri notte, devo dire, testimonio di persona, c'erano gruppi di ragazzi che non so che volessero, giravano dopo il coprifuoco in giro per le strade di Roma. Evidentemente c'è una sorta di flash mob di protesta, non ho ben capito, si capirà meglio più in là. Lei cosa non capisce, sono cose quindi? Che sinceramente mi fanno un po' arrabbiare, ma non per altro, poi ognuno è libero di fare quel che vuole, nel rispetto però delle libertà altrui, perché se io tolgo tempo a persone che magari sono di una certa età proprio per tutelarle, perché questo virus purtroppo colpisce di più le persone anziane, per cui vanno maggiormente tutelate, è normale che però vedere quelle situazioni un po' destabilizza, ecco, questo devo dire la verità. Diciamo che toglie energie e alle forze dell'ordine, che se devono andare a contenere i ragazzi che vanno a far casino, tanto per far casino in giro, non possono preoccuparsi altrimenti della nostra sicurezza. Ingrid, buongiorno. Sì. Grazie, buona giornata. Ingrid. Buongiorno Nicoletti. Dunque, che dire, io mi colloco nel primo gruppo anche perché... Ma tutti bravi, tutti buoni, o ci fosse uno che ogni tanto... No, sono non contento. È che sono buona. Diciamo che ho acquisito l'esperienza nella prima ondata di Covid e so cosa significa. E vi posso assicurare che c'era Pasqua di mezzo. L'unica visita che ho ricevuto a casa è stata quella del medico Usca. Quindi tutte queste persone che fanno, come dire, che sembrano strafottersene, mi passi la brutta espressione, provassero un attimino a vivere l'esperienza del Covid, forse cambierebbero orientamento. Quindi se ci sono delle disposizioni vanno rispettate, anche perché ne va a scapito la salute della gente a 360 gradi, con tutte le conseguenze a cascata che poi si manifestano. E tutti lo stiamo vivendo. Diciamo che l'atteggiamento prudente è l'atteggiamento anche più altruista, che si occupa anche più, diciamo, del benessere generale della collettività. È chiaro che in ogni situazione individuale, se facessimo l'elenco, c'è sempre uno che ha, ecco, la moglie libera e lui è occupato, la moglie occupata e lui è libero, il figlio, il nonno, lo zio, il nipote che non vede. C'è un'infinità di situazioni personalizzate che indicano il disagio. Però mi sorprende un po' che nessuno abbia avuto il coraggio di chiamare delle persone che in realtà si stanno organizzando diversamente, perché ci sono, le cronache ce lo stanno riportando, le indiscrezioni che individualmente raccogliamo ce lo stanno riportando, noi tutti avremmo avuto inviti, mezzi inviti, racconti a mezza bocca di come ci si organizzerà, soprattutto per il Capodanno, perché adesso si pensa al Natale, Natale ancora c'è la parvenza di festa familiare, bambini, nonni, panettoni, tombole e via dicendo. Ma il Capodanno, rinuncerete al Capodanno? E come in alternativa vi organizzerete? Ci fermiamo ancora un istante. Melog. C'è una soluzione anche per chi abita a pochi chilometri dai genitori o dagli amici, ma in un comune diverso. Come sapete, il decreto in vigore vieta di uscire dal proprio comune il 25, il 26 dicembre ed il 1 gennaio. Nulla è vietato però negli altri giorni, il che significa che potete raggiungere parenti o amici la sera della vigilia, cioè il 24 dicembre, purché voi lo facciate prima che scatti il coprifuoco delle 22, e restare a dormire da loro un paio di giorni, passare Natale e Santo Stefano insieme e poi tornare a casa il 27, magari la sera prima delle 22, visto che è domenica e si può sfruttare un'altra giornata in compagnia. Paradossale, io tutti gli anni, vabbè, non voglio fare esempi personali, però rappresenterò pure una categoria di umanità, non ho fatto che lambiccarmi il cervello, inventare scuse per cercare di star solo e non in compagnia, per evitare i tranelli dei parenti, degli amici, dei pranzi, delle cene. Tutte le volte che ho ceduto poi ho pianto per mesi dopo, con tutta la gentilezza delle persone che mi hanno invitato in questi ultimi anni. Allora ricordo intanto Gianmarco Ferronato, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti, che a spregio del ponte oggi sono tutti sul pezzo a casa loro, eccetto Ferronato, Chiappini, Guerrera e Intonti, io a casa nostra, diciamo, a lavorare, a cercare di capire qualcosa di più, dare elementi in più di giudizio ai nostri ascoltatori. Allora vediamo se riusciamo a trovare qualcuno che non appartenga alla categoria dei rigoristi, dei corridoisti, dei coprifuochisti scappatoisti, ma degli anarcofestaioli. Non c'è un anarcofestaiolo che mi sente questa mattina e che mi dice come si organizzerà. Avrà senz'altro il beneficio dell'anonimato, però ci spieghi anche qual è la rete parallela rispetto al rigore e, diciamo, l'apparente ossequio ai regolamenti. Elena, buongiorno. Buongiorno, io sono rigorista ma di ritorno, nel senso che quasi quasi mi facevo tentare, perché sta girando un po' la tendenza a fare dei grossi accampamenti la notte di Natale, perché così si scavalca il divieto di tornare a casa alle 10. Quindi, ecco, come parenti, funziona? Amici, come funziona? Mi dica da chi è stata come è stata invitata e come funziona l'accampamento natalizio. Da mia nipote, che ha dei posti letto, e allora dice: dai, stiamo tutti insieme alle 10, non tornate a casa, io e mia sorella che siamo oltre i 70 e stiamo tutti con i bambini. La tentazione c'era, ci sembrava quasi una buona idea, però poi il problema è il virus, non è il fatto dello scappatoio, ma molti si stanno, è che, diciamo, le zie sarebbero anche divertenti a casa, perché magari cucinano, puliscono, lavano, tengono i bambini, fanno queste cose. Però dovrebbero mettervi in uno sgabuzzino isolato. Noi abbiamo già fatto qualche giorno fa la puntata, una signora si è proposta per fare questa funzione, però andrebbe tamponata con relativo anticipo, messa in quarantena, poi chiusa in cucina, blindata in cucina, e dovrebbe starci fino a dopo la Befana. Se voi zie, non è questo che avverrà. Molte persone la notte di Natale, sento amici, vanno ospiti e dormono direttamente nelle famiglie, il che, insomma, poi condividere i bagni eccetera eccetera non mi sembra una cosa prudente, però molti in città lo stanno un po' facendo, è un'altra alternativa che ci, vabbè, si prende. Si riuniscono le famiglie, c'è un po' di accampamento, anche divertente, c'è questo clima. Sì, però insomma poi i contagi con i nipoti giovani, che fino ad ora non abbiamo visto, proprio per quel motivo abbiamo rinunciato. Potrebbe essere anche una strategia per eliminare le zie, se loro sono, diciamo, i vostri legittimi eredi, dovete mettere in conto anche questa cosa. Vegliate, attenzione, prima di cedere a queste lusinghe, perché vi mettono col nipotino covidato e così si prendono l'appartamentino, il mobiletto. Però in genere la vecchia si brucia a Capodanno, quindi i marenghi d'oro, le cose che le zie di sotto tengono nascoste per i nipoti. Massimo, buongiorno. Massimo. Buongiorno. Mi sente? Sì, sì, l'ascolto, l'ascolto. Ah, sì. Niente, io... Aspetti, una comunicazione servizio. Mi dice Gloria Guerrera che persone della categoria 3 hanno chiamato, poi non hanno più il coraggio di partecipare quando vengono richiamati. La vigliaccheria di non poter mantenere ufficialmente una loro posizione. Vediamo lei invece, lei in che posizione? Ah, lei è un categoria 3, oh, finalmente. Io sono sì, ma non perché sono un negazionista, perché non abbia paura, perché non... io ho comunque dei conoscenti, degli amici che sono stati colpiti anche abbastanza duramente, quindi so cosa allora mi dica, come si organizza l'anarcofestaiolo? Come si organizza? No, ma io non so ancora come, non mi sono ancora organizzato, ma io ritengo che le regole che ci sono state date siano talmente assurde, soprattutto per i giorni del 25, 26 e di Capodanno, che mi viene voglia di trasgredirle. Però Massimo, scusi Massimo, come io non giudico e non faccio una morale, non mi importa il motivo, però lei, visto che ha deciso che comunque le regole può trasgredirle, considerato anche il rischio, quindi lei non è un negazionista, cioè io rischio, però la gente rischia anche, che ne so, va a fare le orge 10-1 senza preservativo, che vuol dire la gente rischia, se diciamo la controparte la giudicano sufficientemente allettante, ma no, come ma si organizza l'anarcofestaiolo? Ma come si organizza? Non lo so, se mi chiede questo non mi sono ancora organizzato, quindi ma se lo vuol trasgredire di capire come. Lei è single, accoppiato, come sta? No, adesso sono single. Per un single è molto più facile, lei si dovrebbe aggregare a qualcuno che fa, diciamo, qualche festa clandestina, oppure in... Nel giro dei single c'è qualcuno che sta organizzando, non so, andiamo tutti a cena in quel ristorante e poi danno anche le stanze, così poi continuiamo, qualcosa del genere. No, ma adesso diciamo è presto, mancano ancora per i nostri standard. Comunque, ma guardate, i posti sono pochi. La mia scelta è una scelta proprio riferita all'assurdità di queste regole, perché io ho dei parenti, c'è mia cugina che abita in un comune a fianco dove abita suo padre, lo vede tutti i giorni assieme anche a sua sorella. E quel giorno lì di Natale e di Santo e Capodanno non si possono vedere, cioè, ma è una roba assurda, sì, ma non è assurdo, è penalizzante questo. Per sua cugina sì, serve proprio per evitare che quei giorni la gente si ammassi. È chiaro che quando si sceglie una regola che deve valere per tutti, qualcuno è più penalizzato, come sua cugina che c'ha il padre a un chilometro, non lo può vedere, e qualcuno in realtà, per qualcuno non cambia nulla perché ce l'ha magari nell'appartamento accanto al suo. Tessa, sentiamo se Tessa riesce a dirmi, categoria 3 Tessa, narcofestaiola. Categoria 3 per principio, concordo con quello che diceva. Vabbè, il motivo non mi interessa, non faccio il confessore io. Come vi organizzate? No, no. Come vi organizzate? Come ci organizziamo è che come famiglia ci organizzeremo, però rispettando rigorosamente una quarantena di 14 giorni dopo esserci visti, in modo poi da non mettere in pericolo persone che sono esterne alla bolla. Cioè, quindi la quarantena la fate dopo, la fate? Vi vedete? Sì, esatto, cioè nel momento in cui ci si vede poi si piglia l'impegno di ma essere siete tutti, in diciamo, quarantena non ci sono, per quanto... Non ci sono categorie a rischio fra di voi? Cioè anziani, sì, per persone carità, con... sto andando a ripigliare mio babbo che esce ora dall'ospedale ed è stato in pronto soccorso, quindi si figuri lei. Ma allora suo padre punto... scusi, voi state in quarantena, ma suo padre rischia in questo caso, no? Ma guardi Nicoletti, le dico, come dicevo, siamo stati in pronto soccorso per 3 giorni, l'abbiamo dovuto muovere perché non c'erano letti per Covid, quindi il discorso è stiamo insieme e stiamo in quarantena. Può essere un motivo. Tutti insieme, sarete diciamo 15 giorni tutti dentro casa per vedere se, diciamo, se è successo qualcosa, se questo vi riesce e onestamente riuscite a stare, non so cosa dirvi. Ritorneremo su questo argomento perché ancora mi interessa molto il Capodanno, rimane un grande punto interrogativo su quello che accadrà a Capodanno. Mi sembra aver capito che a Natale stanno tutti un po' più attenti, ma a Capodanno come si farà? Alla prossima.